Vabbè, comunque diciamo alle 6:30 mi sveglio, mi preparo, alle 7 si parte. È abbastanza presto, E scappa. Si parte, si entra in deposito e si carica. Perugia. E poi aspettate le chiamate. Appunto aspettiamo le chiamate. Si inizia alle 8:30, ma qualcuna già la facciamo anche prima. Perugia. Ma c'erano quelli di via Turatti che hanno, se non sbaglio, livello con l'antenne, hanno, cioè con l'antenne non so se sia della 27 o della 43 MHz. Ah, 43 MHz. L'ho qua acceso. Poi adesso, realmente, oltre quei telefonini, figurati se c'è bisogno della cosa, non peraltro perché... Realmente non dovresti poter dare indirizzi su via radio, per una questione della privacy, capito? Non canale loro privato, quindi così che, ma se uno vuole li ascolta sempre. E vabbè, no, comunque no, noi abbiamo un telefonino tipo citofono, hai capito? Facciamo anche trasferimenti di chiamata e cose, cioè comunicano fra di loro senza pagare, però non puoi chiamare altri. Vabbè, ma quello lì è quello che serve poi alla fine, no? Va, e poi ci puoi mettere trasferimento di chiamata e funziona. Ma la sede dov'è? Sai dove? A dire la verità non l'ho mai capito. Forse ho capito, forse pensavo fosse vicino a casa di Dugariello. Negativo. Nelle zone, diciamo che la zona di, come ti posso spiegare, è la zona di Vigli Attenti, ora. Ecco perché cosa quella signora di quel negozio mi stava dicendo che ci passi spesso. Due passi da loro. Non ho capito, io pensavo fosse da tutt'altra parte. Oh, negativo. No, ecco la zona. Adesso non. Comunque, non ricordo il francotta di quello che mi hanno buttato, lì siamo. Quello che. Non ho capito, scusami, non ho capito. Sì, francotta, quello che mi hanno buttato. Siamo, lì siamo noi. Ma io l'ho capito. Perfettamente, beh no, quindi è un po' distante, dai, da. È distante, però ho capito perfettamente adesso. Ma sai, io non lo sapevo che avessero buttato giù il francotto. Se passi la terra, c'è un pozzo profondo 10,5 metri. Non fare palazzo. Noi volevamo costruire il franco nuovo, ma poi davvero padrono ha detto di no, che è meglio con un palazzo. Beh, vedi tu, sicuramente ci sono più migliori guadagni. Senti un attimino, come la senti la voce? È satura per caso? Cattivo. Una saturazione nulla. Scappa. E poi abbiamo lì via Milano, lo sai dove la rotatoria? Lì dove abbiamo tagli abbrutti per uscire lì. Capiamo, dove ci sono le ambulanze. Ho capito. Poi dimmi una curiosità, con quell'apparato che hai adesso mi puoi dare un controllo di Santiago? Cattivo, avata figurato, dai, te lo tocco. Fammi sentire, che fra l'altro con l'altro esce anche molto meglio, Già, stai uscendo bene. E mani che Maria Musina ti devono vedere, ma perché non rispondi al telefono? Sì, stamattina non ti ho risposto perché era ancora addormentato. Mentato che sì, tutto bene, volevo sapere come stessi. Sì, sto bene, però ogni tanto voce qualcosa di strano, mi sento come cadere, capito? Tipo, così posso dire, non è come se ti girasse la testa, ma una specie di cosa, ogni tanto mi viene questa cosa qua, non riesco a capire cosa sia. Tipo cappuccino, ma non lo è, mi capito? Io lo so che cos'è. Mancata di cosa, di papà. E tu risolvi tutto con quello, papà, se ti manca papà. Ui, un giorno già ne parliamo. Ah tu, vieni avanti. non mi dà affatto. Ah, papà, sì. Adesso non si che sta facendo. Prova a vedere. Bravo, la ora 1, 2, 3, prova, guarda com'è la modulazione. Sì, quasi 9,20, radio 5. Poi poco, di più volevo. Pomponi, e tu cosa mi dici? Guarda un po'. Se scendo bene, se scendo bene. Se volevo dire se c'è qualche prox in più, che io ho un microfono di inserire, presente, è uguale a prox, diciamo, solo che c'ha solo un'amplificazione, senza avere ecco. L'unica cosa che c'è nel dove c'è la fantastica, che tu c'è la manopola lì, c'è un pulsantino che fa un cinguettio di uccellino fa. Un coso di proxel, un circuito interno, spostati un attimino in FM, un attimino al volo, poi in FM. Meglio più mentre uscendo, ora, ora, ora, ora. E scendo bene in FM, dove fai, dove quanto, pare che. Ok, dai, volevo sapere solamente questo. Mentre invece in AM, guarda, vai in AM. Ok, in AM. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ma non si fa una modulazione leggermente complessa in AM. Invece in FM è chiaro, chiaro, chiaro. In FM, preciso. In AM è leggermente complessa. Perché c'ho una scarpetta sotto. Piccolina, piccolina, ma è una scarpetta. Ah, di quel booster c'hai, mamma mia, non sapeva niente qui, ne ho regalato due o tre Giampaoli, quindi. Guarda un attimino la differenza, guarda, è fra così e così che sta accanto, sicuramente ho migliorato in modulazione, però ho perso un po' di segnale. E non è molto. Passi da 9,19 a 9, quasi 25, una cosa del genere. Questo che mi si è ribruciato quell'alimentatore. Sì, però bruciato te, per quanto ho trovato finali di riserva. Sono bloccato quell'alimentatore, tanto hai fatto uno sbaglio madonnale, dovevi pigliarti un bel alimentatore di quel modello vecchio. È molto meglio questi accidenti di cose di squicci di boh. Ma è una taggata per me, non lo so come la penso io, avanti mi chiama. Attenzione, Pomponio. Eia. Certo, Pompon. Vivi Sando, ciao. Eia. Cappa, salutoni a tutti. Oh, Pomponio, dammi un attimino che sto provando l'attrezzo. Fai il passaggio. Ok, prova radio. 9,10, radio 5 a bomba, con picchi positivi a 20. Ok, no, più che altro la modulazione mi interessava, com'è la modulazione? 5, ti sento perfetto, 5 perfetta, sa. Ok, dai, va bene. Ok. Il broxer ha sempre funzionato, io ce l'ho e mi ha sempre funzionato bene qua a casa. No, non mi ha mai dato noia. Non capisco perché dici che sono una cagata. No, aspetta. Stavo parlando del proxer, stavo parlando della scarpetta che ho. Ah, dell'amplificatore. Tu hai detto uno. No, aspetta. L'alimentatore stava parlando di lui. Tu hai detto alimentatore switching. Perché sono una cagata? Vero, Anto. Me l'ha bruciato due, cioè nel senso me l'hanno riparato e si è ribruciato. Io ho il 6045, ho pagato 110 euro e l'ho comprato, dopo neanche due settimane si è bruciato, gliel'ho rispedito e dopo altri pochi giorni è ritornato come prima. Cambiati i finali, cambia tutto, adesso non accende neanche. No, io c'ho. Sto con una 30 e funziona bene. Poi c'ho quello, il telecom o il telebow, non so che cosa. Comunque 30 ampere va benissimo. Sì, no, il mio, quello che ho a casa, io sto usando il basso, io sto usando questo GBC, sono buonissimi, niente da dire. Quello però non ha mai dato problemi, ha sempre funzionato bene. Scusa, neanche io ho un GBC da 5 ampere, è quello che sta pilotando questa cosa qua. ti devo lasciare un attimino che ho gente a casa, un attimo. Buongiorno. Sì, Antonio, dimmi. Gli alimentatori GBC, ma è provato, è quello normale. Ce l'ho in camera da letto, uno di quelli, 5 ampere. Lo sto usando appunto nivel 9, capito? E ci ho fatto la stazione in camera da letto e il tempo ce l'ho qua. Adesso, quando si muove l'antenna, metto il G8 e mi piace il tempo di camera da letto e il tempo del 9 l'ho preso qui in come si chiama, dove c'è il lavoratore, capito? Diciamo quel laboratorio che poi adesso la fanno cameretta come si deve, hai capito? E a me lo sono più tranquillo, anche perché ha lasciato il chiodo qui, a volte mi è capitato di che una volta lasciato la prima tappetta e ne ha acceso l'acqua, è entrata l'acqua dentro, ma la male il chiodo era spento, l'ho fatto acceso, va via dopo condotto. Quindi di là nemmeno il cameraletto è più tranquillo, mi compro il mobile, ce lo metto dentro un mobile e poi lo userò ogni tanto. Tanto devo piazzare la Grand Prix sopra, quindi metto due antenne e anche se esco 5 più basso della cosa, da via 27 non mi frega niente. Mi pronto a usarlo ogni tanto. Ma cosa vuole un barone, non succede? Ma comunque questi della BBC, io ce l'ho 7 ampere, ce l'ho, questo che sto utilizzando ora, e dico che è veramente buono, no, non mi ha mai dato problemi, perfetto proprio, come giorno che l'ho comprato. Aspetta un attimo, Alessio. Via. Ok. Allora, aspetta un attimino, siccome non ero accordato, adesso sono accordato. Ok, vieni un po' se la radio sempre va bene? Sì, radio va benissimo, sei sempre 9:10 a picchi di 9:20. Radio è perfetta, 5 è amplificata. Ok, aspetta un attimo. Chiaro, non sei né saturazione né niente, ne stai strappando, è perfetto, molto sensibile col microfono, si sente tutto quello che c'è dietro, però va bene, capito, non dà quell'effetto che quando sei troppo amplificato te la strappare, sei chiaro. Ok, dai, va bene, va benissimo, dai, niente, sto provando una radio che era tanto tempo ferma e quindi va bene, la voglia va benissimo, perfetta, hai capito? Ti dico che non mi posso lamentare, cioè, ce l'ho già da quando mi avevo preso, dopo 2 anni che ho cominciato a modulare e sono veramente contento di questo alimentatore, 2 dissipatori già, anche se non ho gli strumenti non me ne frega niente, io voglio che funzioni bene, gli strumenti non significano nulla, io voglio che funzioni bene. Ah, vabbè, gli strumenti, per fare qualche cosa non te ne fai più niente in pratica. L'importante è che sia un alimentatore buono, che sia un modello vecchio, che sia solo attore, che non sia switching, capito? Metti switching, qualche problema c'hanno, senz'altro. All'Antonio bruciarsi circa 2 volte se apprendessi finale qualche cosa ci distrano, che non è possibile, capito? O ci sono dei componenti da cambiare che magari mandano il finale e mi fanno scaldare troppo. Bisognerebbe smontare l'alimentatore, una volta si mettono i finali nuovi, vedere se i finali si riscaldano, se è questione che si riscaldano i finali perché il voltaggio è troppo alto, perché in pratica da 220 a 400 volts, hai capito? Non è 400 volts, tende a scendere, hai capito? Lavora in quel metodo lì, evidentemente c'è qualche cosa che non va. I finali sono magari che proprio al limite, quindi si soddisfaldano e qualche problema c'è senz'altro. Perché che sicuramente la è stato costruito male, ma quelli da 30 ampere si può già assicurare che vanno benissimo. Però, ripeto, io ce l'ho e ce la babbo ha sempre funzionato bene, non ho mai dato nulla. Questo che c'è io l'alimentatore, di solito partivano sempre i ponti di Iuri, capito? Poi ultimamente quando abitavo in Corso, in via San Donato, c'erano preparati i condensatori, allora era stato cambiato i condensatori, poi il resto mi ha dato più, mi ha dato problemi. L'alimentatore è quello che è tu. Come c'ho io è della Faretunica, l'avevo costruito Carlo Ciacca, figurati, diceva più di 20 anni questo alimentatore, c'ha 20 anni isolati, quanto c'è il baracchino. Sono buoni, quanti ampere? 25-30 dovrebbe essere. La roba buona. Le vende Fusano, le vende. Costano cari, però sono buone. Passavo cari, sì, gli alimentatori. Adesso voglio comprare un alimentatore d'attore, se ce l'ha ancora, quando l'HP 1012. Dovrebbe essere 10 ampere con gli strumenti della Intec, se ce l'ha ancora me lo prendo, se ci mettiamo d'accordo, tanto lui con l'alimentatore non se ne fa niente, così me lo tengo di riserva per l'abbonato, cioè per fare delle riparazioni, capito? A volte prendo di stereo, non so dove attaccarli, così me lo metto qui, faccio la strumentazione per poter fare qualche lavoretto là. Intec sono molto buoni, anche quelli switching Caseta sono molto all'avanguardia, perché l'ho letto, non ricordo, sono molto superiori a Trapser. Adesso già sono buoni, meno male, come alimentatori, non hanno mai dei problemi, al limite se bruciano di 3,55, ma succede raro quello, magari quando fai qualche cortocircuito e mandi tutto a massa, si crepano i corsi, ma è difficile. Va bene, tanto io mi sto passando in guaretti, che vado a vedermi un film della televisione, ci sentiamo al limite domani, eh? Stavi bene, buon lavoro, buon tutto, se rientra Antonio me lo saluti. Capo, aspetto se rientra Antonio, altrimenti pure io mi metto il mio televisore. E a domani, dai, ciao. Ciao.